Benvenuta. Buongiorno Nicoletta e Debora, sono una vostra fan accanita, lo saprete. Brava. No, e guarda, ce le godiamo in libertà. Quando io vedo le coppiette in palestra che stanno tutte insieme, mi vengono proprio, mi viene l'orticaria. Dei veri e propri gatti di marmo. E questa? Buongiorno, grazie per avermi dato la patrimoniale. Grazie per la compagnia. Ah, grazie per l'info. Roberta, siete un mito. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi presenta Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. Porterò nei posti dove c'è del buon vino. È festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame. Debora, ti ho lasciata sola per due giorni, ma direi sono perfetta, mi sono fatta perdonare. Ti porto a Verona, sì, città dell'amore, della musica, con l'arena e del vino. Infatti noi oggi siamo in diretta dal Vinitaly, per chi volesse venire a farci un salutino e magari a baciarci, a farci dei complimenti. L'hanno già a fatto. Dirci che siamo bravissime, solo accettiamo solamente complimenti. Può venire allo stand del Consorzio Tutela Vina di Abruzzo al padiglione 12. Noi siamo qua fino alle 12:30, ma naturalmente da casa potete chiamarci all'800 24 0024. Oggi una puntata straordinaria. È vero. Allora Nicoletta, tu quando ti muovi fai le cose in grande. Sei andata via giovedì e venerdì, mi sei andata a Roma, hai incontrato la regina Elisabetta. Certo, sono andata apposta. Mi siete fatte Mi ha detto: Nico, puoi lasciare Debora e venire un attimo con me? Io ho detto: vi siete fatte un prosecchino insieme? Ma certo, ecco, più di uno. Questo per arrivare a raccontare ai nostri amici che ci seguono da casa che oggi siamo a Vinitaly, il più importante salone mondiale dedicato al vino e ai distillati. Quest'anno siamo alla 48esima edizione e a proposito di numeri, se tu hai dato il nostro numero verde, io do qualche cifra proprio dedicata al salone. Presenti 4.100 espositori, una superficie di 100.000 metri quadrati, nessun taxi in circolazione come noi ben sappiamo in queste ore, e poi 50.000 operatori stranieri provenienti da 120 paesi. E a fare una visita naturalmente è venuto anche Paolo Repetto, uno dei nostri ospiti di questa mattina che saluto, buongiorno. Ciao Debora, buongiorno a tutti. Commerciante di Fine Wine e anche consulente in questo settore, consulente nell'ambito dei vini di alta qualità, di grande prestigio, e anche nel mondo dei vini come investimento, vero? Ripeto. È vero, il mio lavoro è proprio quello di comprare i più grandi vini del mondo, rivenderli poi a tutti i grandi appassionati in Europa, Stati Uniti, Asia, insomma lui sono tutti grandi collezionisti che sono sia bevitori che investitori. Insomma, cara Nicoletta, invece di un fondo di investimento, di un conto di deposito, stamattina cercheremo di capire se anche acquistando una buona bottiglia possiamo metterci da parte la nostra pensione. Mi sembra un'ottima idea, ecco. E soprattutto cercheremo di farci invitare a cena da Paolo Repetto a casa sua, chissà quante bottiglie. Esatto, tra l'altro Paolo Repetto è molto giovane ma allo stesso tempo vanta già un curriculum di tutto rispetto. Molte volte qui a Cuore Denari parliamo di giovani e lavoro, lei è un buon esempio da seguire, tanto più che i dati confermano che il vino italiano batte la crisi e cresce sia per fatturato che per addetti. Lo possiamo considerare oggi un po' un settore scaccia crisi, ma questo soprattutto vale anche sul mercato domestico, o è un settore scaccia crisi perché per fortuna ci sono i mercati internazionali che rappresentano una domanda molto buona di questo nostro prodotto? Il vino è assolutamente un settore scaccia crisi perché prima di tutto rappresenta la parte trainante dell'export per quanto riguarda la parte alimentare dei prodotti italiani, ha un fatturato che credo sia superiore ai 5 miliardi e mezzo di euro, se non sbaglio, quindi è un bel pezzo di PIL. È vero. E sì, sicuramente l'export sta facendo la parte del leone negli ultimi anni perché ha dei tassi di crescita a doppia cifra. Il mercato domestico sta un pochino soffrendo data un po' la congiuntura economica che c'è stata, ma nonostante tutto anche il mercato domestico è in crescita e quindi questo è sicuramente un dato molto positivo. Poi fortunatamente stanno crescendo dei mercati molto importanti che sono i mercati asiatici, la Cina, anche se non con numeri molto importanti, ma sicuramente un mercato che per i prossimi anni rappresenterà una parte molto importante, il sud-est asiatico, la Russia e in più anche la crescita dei mercati storici. Certo. Come Stati Stati Uniti, Europa, quindi insomma la situazione è positiva. Chissà che cosa abbinano i russi, i nostri rossi. Poi stamattina magari faremo, magari lo sanno i nostri ascoltatori, lanciamo il domandone di oggi? Proviamoci. Che ne so, secondo voi i cinesi con che cosa bevono il nostro prosecco? Il prosecco di Valdobbiadene oppure un vino d'alba? O una Francia Ripeto, corta. Qual è il suo pezzo forte? Scoprire cosa bevono i cinesi è un po' complicato perché sono un po' testardi, cioè loro hanno le loro abitudini, il loro cibo, quindi però insomma anche loro si stanno avvicinando ai vini italiani, piano piano si stanno scoprendo, quindi anche questo è positivo. E allora, se volete cimentarvi in questo gioco di fantasia, 800 24 00 24, il numero verde sempre aperto per voi, ma naturalmente fra un po' proporremo anche delle domande più serie. Perché Deborah parlava di abbinamenti e dato che a tavola il bicchiere e il piatto sono molto vicini, noi abbiamo il piacere di avere qui con noi, e finalmente lo vedo in carne e ossa e devo dire che è un gran bel ragazzo, Stefano Polato, cuoco e autore di tutte le ricette di Mangia con me, che come sapete abbiamo preparato insieme a Stefano Polato con la supervisione del dottor Ongaro, e potete rileggere e quindi sperimentare collegandovi con la pagina di Cuore Denari. Mi aspetto Stefano, un abbinamento con le bacche di goji adesso. Intanto Stefano, ciao, grazie per essere Buongiorno. Qui. Tu dici le bacche di goji, apriamo una piccola parentesi e poi andiamo veramente agli abbinamenti, Stefano ci aiuterà anche a così misurarci un po' con le ricette del nostro territorio, quindi raccontateci già la vostra ricetta del cuore, quella che vi racconta di più, e Stefano magari vi aiuterà a metterla un po' a punto, a calibrarla, perché Stefano... Raccontaci bene, sta preparando anche il menù di una gran donna che è in partenza, diciamo così. Sì, è in partenza e si chiama Samantha Cristoforetti ed è la prima astronauta donna italiana che volerà a fine anno, a novembre 2014. E in realtà il menù è già pronto, sì. Le ricette sono già state, i preparati sono già stati spediti a Houston, sono già stati caricati all'interno del cargo, ecco. E giugno o luglio partirà il cargo con il cibo di Quindi, Samantha Cristoforetti. Come a dirvi che a Cuore Denari abbiamo uno chef, un cuoco spaziale. Incredibile, infatti, ripeto, magari poter mandare anche del vino sullo spazio, che chissà che non si possano esplorare nuovi mercati. Non sarebbe male, un'idea, sì. Infatti, incredibile. 800 24 0024, potete naturalmente intervenire, parliamo di vino, parliamo di cibo, tra poco in collegamento con noi un... Ce l'abbiamo già, un grande esperto, il professor Giovanni Scapagnini, medico, neuroscienziato e professore di biochimica all'Università del Molise ed esperto in nutrizione umana. Buongiorno professore. Buongiorno. Però è caduto mannaggia, il professore. Non lo sentiamo adesso. Noi non lo sentiamo, ma insieme al professor Scapagnini parleremo di tutto quello che di prezioso c'è nel vino. E ci sono davvero tante cose. Professore, buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Eccoci qua. Professore, provi un po' a parlare, a raccontarci che cosa c'è di straordinario nel vino, lo sappiamo, polifenoli, antiossidanti, così noi sentiamo se la sua voce arriva bella pulita qua al Vinitaly. Sì, bene, spero che mi sentite bene, del vino ci sarebbe Benissimo. Veramente tanto da dire. Com'è la voce? Ottima. La voce è perfetta. Bene, perfetto. È sobrio. Beh, allora è ottimo anche il vino. Deborah dice a quest'ora è sobrio. Sì, naturalmente sono ancora sobrio, ma devo dire che sono, ecco, mantenendomi Attento. Nel tema della scienza, comunque sono un appassionato dei composti certo. contenuti nel vino. Abbiamo parlato, i polifenoli sono una famiglia enorme, sicuramente sono la cosa che ha attratto di più l'attenzione degli scienziati, perché il vino è sempre stato visto con un po' di riserve per motivi collegati alla tossicità potenziale dell'alcol, però a dosaggi moderati, stiamo parlando di mezzo litro al giorno distribuito ai pasti, che è quello che viene indicato come il dosaggio giusto per ottenere il massimo degli effetti, beh, il vino porta insieme all'alcol invece delle sostanze straordinarie che sono dei piccoli allenatori del nostro organismo in senso molto positivo. Mi piace, dei piccoli allenatori, dei coach, ne parleremo nel corso esatto. della trasmissione. No, mi incuriosiva, volevo sapere da Paolo Repetto qual è la sensibilità di un produttore attorno a questi argomenti che hanno a che fare con la nutrizione. Io credo che la sensibilità attorno alle qualità delle vostre produzioni sia sempre più alta, no? In modo tale che possano andare fra i consumatori, ma chiaramente avere un occhio molto attento anche alla salute. Sì. In realtà ultimamente tantissimi produttori sono molto attenti a proprio al lato salutistico del vino, perché purtroppo, come sappiamo, il tetto della vigna è il cielo, e quindi molto spesso è stato necessario, è necessario ricorrere a trattamenti chimici nel momento in cui ci sono attacchi di malattie fungine o piuttosto che eventi atmosferici sfavorevoli e tutto. Fino a qualche anno fa, diciamo che molti produttori facevano trattamenti anche abbastanza pesanti, aggressivi, anche lavorazioni in cantine magari non usando un eccesso anche di prodotti chimici, mentre invece negli ultimi anni tantissimi produttori stanno iniziando a diminuire i trattamenti in vigna, a lavorare in cantina usando meno sostanze chimiche, abbassando l'uso della solforosa, che è un conservante, qualcuno dice indispensabile, qualcuno no, però comunque molto importante, si cerca di abbassarne l'uso, e quindi insomma è un tema molto sentito anche per mettere in condizione i consumatori di godersi un bicchiere di vino senza preoccuparsi troppo per la salute. Stefano, c'è un ritorno nel vino, come anche nel nostro stile alimentare, un po' a un'alimentazione rispettosa, anche soprattutto dell'ambiente. Sì, assolutamente sì, e il vino rappresenta benissimo quello che abbiamo cercato di divulgare anche in Mangia con me, insomma, seguire la stagionalità dei prodotti. Il vino per eccellenza è un prodotto che diventa buono solo se si rispetta la natura, quindi il giusto periodo di maturazione dell'uva, il giusto terreno, il giusto grado zuccherino e quant'altro. Quindi per arrivare a un prodotto finale importante bisogna seguire appunto questi concetti. Quindi se vogliamo, il vino, dentro una bottiglia di vino c'è tutta la natura che lo rispecchia, insomma. E allora la domanda che insieme a Deborah vogliamo farvi oggi è: se voi foste un vino, quale vino sareste? 800 24 00 24. Naturalmente lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Esatto, perché infatti volevo chiedere a Paolo Repetto, alla fine del programma ci deve dire secondo lui quali vini siamo io e te. Adesso lo facciamo, ci penso, lo facciamo riflettere per un'oretta. Ah, non possiamo dire subito che vino ci sentiamo noi. Vabbè, se quello che dico io corrisponde. Va bene, allora facciamo così, io lo scrivo, lo mettiamo su Facebook e poi vediamo se poi tu alla fine ci dici se siamo il vino che noi pensiamo di essere. Esatto. A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Ma senza vino non c'è festa. Mitico, lui è veramente è un idolo. Poteva mancare di dire la sua su questo argomento, non sia mai Papa Francesco. Il vino fa festa, un detto popolare, professor Scappagnini però diceva e dice che il vino fa anche sangue. Professore. Sì. Ma ci sono delle ricerche, ecco che... Il motivo del sangue deriva probabilmente anche da un concetto di tradizione religiosa, appunto, diciamo che il concetto di festa di Papa Francesco è sicuramente legato all'allegria, alla convivenza, e il vino per le sue proprietà unisce le persone, però c'è sicuramente proprio la tradizione cattolica ha moltissimo a che fare con il vino, quindi il concetto del sangue è molto legato all'aspetto religioso. Nella realtà le sostanze contenute nel vino servono a far star bene il nostro organismo e potenzialmente, dicevamo, molte di queste molecole preservano da patologie, sono dei piccoli allenatori che ci aiutano a migliorare le performance quotidiane. Questo è un concetto che sta crescendo sempre di più ed ha a che fare con la parte ovviamente non alcolica del vino. Noi associamo spesso il concetto del sangue al ferro, sì è vero, il vino ha anche minerali interessanti, il vino contiene anche vitamine, però sicuramente sono le sostanze appartenenti al mondo della chimica vegetale, i famosi polifenoli, che sono le più interessanti, che sono state anche quelle come dire, maggiormente studiate in un'ottica della possibilità che questo alimento sia un alimento fondamentale nella gestione della salute quotidiana, tra quelli che appartengono alla dieta mediterranea, che come sappiamo è un modello in termini di qualità dell'invecchiamento e del mantenimento della salute alimentare. Infatti, professore, secondo gli studi, oltre che a rallentare l'invecchiamento, e questo è merito dei polifenoli, sarebbe il vino anche un buon regolatore di glicemia e obesità. Ecco, lo raccontiamo qua al Vinitaly, questa, no, queste proprietà del vino, che sono provate da studi recenti. Beh, moltissimi studi, proprio nel 2013 c'è un bellissimo studio spagnolo su Journal of Clinical Nutrition che ha dimostrato proprio come i componenti, diciamo la parte non alcolica del vino, perché hanno somministrato a un buon numero di persone con problemi di gestione di glicemia, quindi del prediabete, diciamo così, un sì, vino alcolico e un vino dealcolizzato, ma con lo stesso quantitativo di sostanze, e hanno visto che quella parte, la parte diciamo contenuta nel vino ma non appartenente all'alcol, che migliora la glicemia, la gestione quindi del metabolismo dei carboidrati, che sicuramente è un aspetto molto rilevante diciamo nella qualità dell'invecchiamento. Sembra che queste sostanze siano anche molto utili a migliorare il metabolismo lipidico, e quindi in qualche modo non possiamo definirla una terapia per l'obesità, ma sicuramente un regolatore, un quindi, piccolo regista quotidiano anche della gestione. Quindi Paolo praticamente ha una farmacia, no? Perché tu con tutte le bottiglie di vino. Tutto vino per la prova costume, mi raccomando, comprate. Comprate e bevete. Allora, a proposito di comprare, qua rientra in gioco la donna di denari, perché un pochino di prezzo stamattina dobbiamo anche parlare. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori all'800240024 come fate a brindare in modo economicamente parlando non dispendioso e senza rinunciare alla qualità. Andate a recuperare il vino direttamente dal produttore, poi lo imbottigliate in casa come faceva mio papà, magari con una bella etichetta fatta da voi. Raccontateci qual è, anche se c'è, il vostro vigneto di fiducia, quanto vi costa tutta l'operazione, oppure avete trovato una vineria in città dove il vino è buono, lo pagate al bicchiere anche senza acquistare la bottiglia intera. Insomma, quanto spendete? Raccontateci, e se volete mandateci anche la foto della cantina di casa vostra o della bottiglia che state mettendo a tavola per il pranzo. È quasi l'ora già. E infatti 349-238-6666. Qua al nord si mangia un pochino prima rispetto al sud, vero Stefano? 349-238-6666 dice Deborah. Ma no, devo leggere questo messaggio. Sono dei messaggi che ti fanno ridere. Abbiamo lanciato una provocazione: secondo voi cinesi e russi che vino bevono e come abbinano? E allora c'è questo ascoltatore Fabrizio che ci scrive: intanto salve donne vivaci come il prosecco e dolci come il lambrusco. Conosco dei ristoratori cinesi a Milano che nel giorno di chiusura vanno a mangiare in un ristorante italiano spaghetti allo scoglio e vermentino di gallura. Ci piace? Ci piace. Il cinese, sono Paolo, cinesi 2.0. Hai capito, esatto. E poi il settore del vino, un altro ascoltatore commenta, non risente della crisi perché la gente beve per dimenticare. Io però direi perché abbiamo dei buoni prodotti. Salutiamo Stefano, i nostri amici fuori. Ciao, ciao. Ciao, baci. Stefano, il vino si usa anche in cucina, ci sono dei piatti proprio dove il vino, non dico che è l'ingrediente principale, ma ieri ad esempio al ristorante proponevano il risotto alla marone. Certo. In Piemonte, e tanto per onorare Paolo, siamo brasato al Barolo, ecco. E poi sei tu che fai il cuoco, io mi fermo qui, ma insomma il vino c'è. Sì, il vino è da sempre utilizzato in cucina, e mi collego un attimo a quello che diceva il dottore, che non solo a questo punto aiuta a conferire gusto, profumo e aroma al piatto che stiamo preparando, ma dà una marcia in più anche a livello nutrizionale, insomma. Quindi il concetto è quello di dealcolizzare attraverso la cottura il vino in modo tale che restino i profumi e i gusti, e non abbiamo più la carica alcolica e ci rimangono tutte quelle preziosissime qualità che il vino ci offre. Infatti si dice si sfuma col vino. Ma quante ne sai? Guarda. E so anche che è tempo di andare in mercato. Ma ci sentiamo Mimmo da Taranto un attimo, così diamo in là ai nostri ascoltatori all'800240024. Abbiamo chiesto che vino vi sentite, e Mimmo da Taranto inevitabilmente cosa si sente? Lei, Mimmo, buongiorno. Buongiorno, sono Mimmo da Manduria. Come potrei dire, il primitivo di Manduria è un grande vino. È uno dei grandi vini d'Italia, rosso, corposo, un vitigno autoctono. Chi non lo conosce deve provarlo perché è buonissimo. Ma ti ha stupito o no? Mi hai stupito. Mimmo, grazie. Di più. Pensa che è il vitigno più coltivato al mondo, il primitivo. Anche in California, nelle valli di Napa. E... Senti, e ci sono delle bottiglie che diventano investimento con il primitivo di Manduria? Non prodotte in Italia, purtroppo, per il momento, però ci sono delle bottiglie importanti prodotte proprio in Napa Valley, che sono una sorta di oggetto di culto, perché poi è prodotto in pochissimi esemplari, quindi... Ma incredibile. Allora, prima dei mercati, quindi noi il vino lo beviamo perché col placet del professor Scapagnini. E sono dei piccoli allenatori, un piccolo e regista. E lo abbiniamo con i consigli di Stefano Polato, ci investiamo nel vino, diventiamo anche ricchi, meno male che siamo al vinito. Meno male che siamo italiani. Allora, andiamo a sentire intanto cosa succede in borsa, poi andiamo anche a Gianni da Roma, che ha trovato in cantina delle bottiglie preziose, chissà se valgono qualcosa. Cuore e denari. Che cosa vedi là dentro? Fervè. Parli le lingue straniere, ragazzo mio? Fervè è una parola latina, vuol dire ribollire. I lieviti naturali della tua cantina stanno convertendo lo zucchero dell'uva in alcol. L'emissione di anidride carbonica è ciò che provoca il ribollire. Torniamo insieme e lo facciamo con una clip, l'abbiamo fatto come avete sentito per chi lo ha riconosciuto dal film Un'ottima annata con Russell Crowe. Ecco, che gran pezzo sarebbe d'uomo. Russell Crowe, secondo bello Paolo Retretto, sarebbe un cabernet californiano, magari, no? Visto che lui è proprio americano, poi è, insomma, mi sembra un uomo... anche fisicamente di un certo spessore, o forse australiano, allora no, un cabernet australiano. Un cabernet australiano. Basta cambiare la provenienza. 800 24 00 24, se volete giocare con noi a raccontarci il vino che più vi rappresenta, se volete anche avere dai nostri esperti, che ripetiamo sono Paolo Repetto. Io sento un po' il profumo un odore di bruciato. Qua siamo a posto con la regia, qua non arriva fumo, no. Speriamo bene. E Stefano Polato, per ricordare gli ospiti presenti oggi, il professor Scapagnini al telefono, ma la prossima volta verrà veramente in studio per raccontarci tutti i segreti della longevità, vero professore? Sì. Eccolo qua. E quindi insomma anche il vino aiuta a rimanere longevi, a diventare longevi. Direi proprio di sì. Noi parlavamo prima dei polifenoli. Una di queste sostanze, il resveratrolo, è diventata una delle più famose sostanze utilizzate nei modelli sperimentali per aumentare la longevità. Quanto poi il vino sia in grado realmente di trasferire questo aspetto alla intera umanità resta ancora da stabilire. Certo è che questa sostanza, che fa parte proprio delle sostanze maggiormente concentrate nel processo di fermentazione del vino, che deriva comunque dall'uva, è stata usata per allungare la vita in moltissimi modelli sperimentali animali, ed è, diciamo, un filone di studi che ha fatto capire come si può realmente intervenire su questo tema, cioè allungare la vita e soprattutto ridurre le patologie croniche associate all'invecchiamento. 800 24 00 24, intanto, se siete un po', come dire, anche attirati da questa teoria, se ritenete che il vino possa garantirvi una longevità, soprattutto il vino buono. E qua invece abbiamo molti ascoltatori che si sono subito lanciati con una delle tante domande che abbiamo lanciato noi questa mattina: il vino come modalità di risparmio. C'è qualcuno che trova dei piccoli tesori in cantina qua inaspettatamente e pensa di aver trovato un tesoro. È successo a Gianni da Roma, speriamo di non doverlo deludere. Sentiamo un po' qual è la consulenza che ci fa in questo senso stamattina Paolo Repetto. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Buongiorno, cosa ha trovato? Ci dica un po'. Io ho trovato in una cantina di un appartamento di Genova dei miei, che adesso venderò, una trentina di bottiglie di Barolo, dei Marchesi Barolo, che vanno dal 1938 al 50. E lei dice: che cosa ne faccio, me li vendo, sì, così ce ne compro altre tre? Io in Germania dai miei nipoti, che hanno dimestichezza con internet, io sono un Metusalemme, quindi non ho tratto. Ha fatto fare delle ricerche. Se le sono vendute hanno fatto più di 100 euro per una. Paolo Repetto, allora dici un po'. Ma questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché molto spesso mi contattano delle persone che hanno trovato le bottiglie in cantina, magari dimenticate, messe da parte, di Barolo, Barbaresco, Brunello, Chianti. E bisogna stare attenti a una cosa: non sempre delle bottiglie, perché sono vecchie, valgono, anzi purtroppo quasi mai, perché le bottiglie che crescono il loro valore nel tempo sono veramente poche. Qualche etichetta, per esempio, facendo un paio, qualche nome? Sì, vabbè, parlando di Piemonte, andiamo a cercare in cantina, non si sa mai. Parlando di Piemonte, sono i vini di Gaia, di Bruno Giacosa, di Bartolo Mascarello, tanto per fare qualche nome. Stefano, tu ne hai qualcuna? Qualcosina, sì. Bene, Toscana, qualche Brunello, Biondi Santi, certo, più famoso, certo, piuttosto che Soldera, così. E invece, ma anche le bottiglie che ha trovato il signore, che tra l'altro produce la mia amica Valentina Buona, che saluta se ci sta ascoltando, sono intanto vini eccezionali, perché la Marchesi produce benissimo adesso e all'epoca anche, e possono anche avere un discreto mercato, perché comunque 100 euro a bottiglia per dei vini che magari si pensava che poi non avesse avrà, più valore, insomma, da che bella, anni ce li ha al nostro ascoltatore? Sono dell'annata dal 38 al 50. Però, insomma, 100 euro alla bottiglia, due le ha già date ai nipoti in Germania, e ne rimangono per un po' venderle, perché aprirle non se ne parla. Perché no? Si può provare. All'epoca, una volta si facevano, era più raro fare delle grandi annate, adesso è un po' più semplice perché il cambiamento climatico ci sta favorendo per il momento. Però anche, insomma, ad esempio il 45 in Piemonte, l'anno della seconda guerra mondiale, è stata un'annata straordinaria. Incredibile, sì. Quindi tra tanta tragedia, in realtà almeno una piccola soddisfazione ci fu. Allora, andiamo al Lino da Modena. Sì, perché io sono un po' accecata, non vedo fino Hai ragione, là. Adesso ti favorisco un po'. Lino, buongiorno. Lei che buongiorno. Vino si sente? Ci dica un po'. Allora, intanto congratulazioni per il programma. Mi dispiace di non essere lì, perché solitamente ho sempre visitato il Vinitaly. Nonostante io sono modenese, quindi terra di Lambrusco, nonostante viaggi spesso alla Francia, quindi potrei dire di assomigliare a un Borgogna, a un Côte du Rhône o a un Bordeaux, mi sento molto vicino al Barolo, perché è una terra di mistero, di nebbiolina, infatti tutto è a base di nebbiolo e di una decadenza un po' romantica che mi assomiglia. Quindi, ma lei è un poeta, Lino da Modena, direi molto charmante. Tra l'altro posso, che scopro stamattina che nebbiolo è legato anche ad un fatto di nebbia, Paolo. Ma, ci sono due scuole di pensiero. Il primo è il fatto che il nebbiolo, soprattutto quello per produrre il Barolo Barbaresco, ha un tempo di raccolta tardivo, no? Sì. Di solito anche verso fine ottobre in certe annate, no? E da noi in Langa in quel periodo, c'è, soprattutto di mattina presto, c'è spesso la nebbia, no? Sì. E quella nebbiolina magnifica. Sì. Beh, quando fa tanto freddo non è tanto. E invece l'altra scuola è per il fatto che il nebbiolo è ricoperto di questa sostanza bianca chiamata pruina, e che ricorda un po' il bianco della neve, insomma, quindi ci sono un po' queste due filosofie. Un pochino però alla nebbia ci ritorniamo sempre. E che professor Scappagnini, gli abbinamenti noi li aspettiamo dei nostri ascoltatori, soprattutto raccontateci il piatto della vostra terra. E noi siamo una grande terra di vini, ma anche una grande terra, no, di grande cucina, di grandi piatti, insieme a Stefano Polatto, il nostro cuoco spaziale, a questo punto posso chiamarti così. Stefano vi darà delle indicazioni per portare a casa la tradizione, quindi portare a tavola la tradizione, ma con un occhio un equilibrio nutrizionale. E a proposito, professor Scappagnini, la domanda bisogna farla, no? Abbiamo parlato di grandi vini, abbiamo parlato di Barolo, di Nebbiolo, bianco o rosso? Si dice che il rosso abbia delle proprietà più particolari, più salutari rispetto al bianco. È vero oppure è una leggenda metropolitana? Allora, è parzialmente vero. Il colore solitamente corrisponde alla presenza di sostanze molto positive. Questo è vero spesso anche nel mondo vegetale in assoluto, anche negli ortaggi. E nel vino è proprio così. Le sostanze che danno quel colore intenso al rosso derivano dalle vinacce, come sapete, da un processo diverso di produzione del vino, e sono le antocianine, che sono le stesse sostanze che danno il colore ai frutti di bosco, alle fragole, o almeno molto simili. Beh, queste sono sostanze molto concentrate nel vino rosso e molto meno presenti nel vino bianco. Il vino bianco comunque ha qualche sostanza interessante, per esempio la quercitina, che è un altro tipo di polifenolo, è abbastanza presente nel vino bianco, quindi in termini di proprietà, di capacità di difese antiossidanti, se la cava un po' anche il vino bianco. Sicuramente il vino rosso è una, come dire, un, un tesoro di sostanze nutrizionali, si porta presso delle cose fantastiche, e il vino bianco è un filino più povero. Questo non vuol dire che il vino bianco sia una brutta bevanda, anzi è un'ottima bevanda, ma sicuramente il vino rosso è quella più studiata e maggiormente attenzionata da un punto di vista delle qualità nutrizionali. Quindi, professor Scapagnini, io so già che quando noi le chiederemo, professore, lei che vino sarebbe, se fosse un vino andrà sul rosso, ma abbiamo che naturalmente Paolo Repetto che ci dirà da quello che ha sentito del professor Scapagnini se ha detto, ha scelto il vino giusto o no, e continuate a farlo anche voi e poi andiamo in cucina insieme a Stefano Polato. Esatto. Ma abbiamo Fabio. Esatto, intanto andiamo ai nostri ascoltatori. Fabio da Rovigo, con il rosso però ha qualche problemino di tolleranza. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho passato un'ipertrofia prostatica benigna, passata, mi è rimasto che non posso più mangiare la pizza con la birra, la bevo solo analcolica, il vino rosso mi fa male, 2 giorni e 2 notti di bruciori, penso che sia la vescica, però non devo venirne a fondo. E quindi il vino rosso che mi piace tanto non posso più bere. È vero, è lì il problema, che a lei solo piace un sacco. Solo bianco fermo. Niente fermo. Bollicine neanche. Stefano, bianco e rosso si usano entrambi in cucina. Sì. C'è un modo di utilizzare il vino nelle nostre ricette e magari per ridurre il quantitativo di grassi? Io penso ad esempio alle marinate, no? Che danno sapore assolutamente e evitano di aggiungere troppo sale, ma sfruttano il potere delle spezie. Quindi esatto. Quello che ti voglio chiedere è, aiutaci a utilizzare il vino in cucina? E poi domandone, possiamo prendere anche un vino non proprio di grande etichetta oppure conviene usare il vino purtroppo costoso? il concetto degli ingredienti di qualità rimane anche per il vino, insomma, quindi perché uno dice per arrivare... lo uso per cucinare, certo. Fa di tappo, lo uso per cucinare, giusto? No, è sbagliatissimo, perché se un vino sa di tappo, nel momento in cui lo restringo attraverso la cottura, quindi lo faccio ritirare, esalto ancora di più il profumo di tappo, quindi purtroppo il vino che sa di tappo va eliminato, punto e basta. È assolutamente non utilizzato in cucina. E va bene, allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi ti aprirò anche la parentesi sul rosé. Cuore e denari. In diretta, Cuore e Denari dal Vinitaly di Verona. Sono un po' emozionata, non perché ho bevuto, ma perché io vedo un ospitone davanti a noi, un grandissimo... Diamo l'indizio, come abbiamo fatto con Paolo Nespoli. Vai l'indizio. Imprese sulle due ruote eccezionali. Due ruote, allora l'hanno indovinato che cosa tutti, vuol dire? Magari, però... Vabbè, io ne posso dare un altro, perché io mi ricordo di queste imprese fantastiche con un concorrente, e litigavo tantissimo con i miei amici perché eravamo divisi in due fazioni, i suoi tifosi e i tifosi dell'altro. 800 24 00 24, noi possiamo gustarcelo. Esatto. Qua in studio, ma tra poco mi pare che sia anche un produttore potrete... di vino, giusto? Esatto. Quindi magari qualcuno va a cercare su internet un vino che ha anche un numero, che ha un'etichetta che ha anche un numero che ricorda un suo record. Basta. Solamente. Allora, eccoci, torniamo qua ai nostri ascoltatori. Esatto. Stefano, tu ci dicevi che puoi aiutarci a utilizzare il vino in cucina, non bisogna usare quello che sa di tappo, naturalmente quello si butta, per portare nei nostri piatti molto sapore ma molta salute. Certo, allora, come dicevi tu giustamente prima, per le marinate è ottimale, insomma, spesso si utilizza il vino bianco per le marinate di pesce in abbinata solitamente con un agrume o con le scorze, con il succo. Quanto si deve lasciare in marinate? Ma poi in realtà, le marinate vanno in frigorifero o fuori? Allora, la marinata andrebbe sempre in frigorifero. Andrebbe sempre in frigorifero. Facciamo giusto, devo... E in realtà non moltissimo tempo. Dipende molto dallo spessore del filetto o comunque, certo, del pesce che andiamo a marinare. Solitamente non si supera la mezz'ora. Okay? Quindi okay. Non sono marinate lunghe, altrimenti rischiamo, lo so che il termine non è appropriato, però rischiamo di cuocere. Esatto, così noi capiamo il prodotto. Okay? Invece non dobbiamo cuocerlo, ma dobbiamo semplicemente conferirgli sapore. E in questo modo risparmiamo anche il condimento, il sale. Assolutamente sì, perché esaltiamo anche il profumo dell'alimento stesso, così possiamo evitare di abbondare con il sale, ad esempio. Spesso nelle marinature si utilizzano molto le spezie, l'aneto, il pepe rosa, il pepe. Quindi è un ottimo stratagemma per evitare appunto l'eccesso di sale in cucina. Tu lo sai, Stefano, che ormai dovrai farci una ricetta che noi metteremo sulla pagina di Cuore Denari, rimandando naturalmente a tutte le tue ricette una ricetta, certo, che tu hai inventato e su cui ti sei ispirato proprio stando con noi oggi al Vinitaly. Allora lo devo far cimentare anche... La ricetta di Stefano Palato dal Vinitaly, ti piace? Okay, lo voglio far cimentare con il vinello che mi ha regalato tu a gennaio, te lo ricordi? Certo. Mi ha regalato un Lambrusco Rosé, non so se voi siete d'accordo o meno, so che però l'avevamo gustato ad un aperitivo, a me è piaciuto e immediatamente lei di nascosto, molto carina, è andata a farmi questo regalo per un'occasione speciale. Carina, la donna di qua. Esatto, come lo... adesso lo lasciamo riflettere. Perché lo vedo che ha corrucciato un po' lo sguardo già, il nostro già chef. Il termine rosé mi ha... Perché rosé ti fa strizzare il naso? Spesso e volentieri quando devo pensare ad una ricetta immagino i colori degli ingredienti e poi provo ad assemblarli e provo a capire se il risultato quindi può essere abbiamo buono. Molte prove in cui si stanno cimentando i nostri ospiti, devono darci a noi l'immagine di un vino e poi dobbiamo confezionare una ricetta, certo, con il rosé. Andiamo agli ascoltatori. Allora, qua ogni tanto Cuore Denari diventa anche un po' ufficio di collocamento, intermediazione di affari, e infatti ne facciamo fare uno probabilmente. Diventeremo anche agenzia matrimoniale un po'. Su quella lo sai che quindi che se avete... stai perdendo attenzione, proprio tutte le scommesse. Mandateci le vostre foto che noi l'anima gemella ve la troveremo e facciamo Roberto, spazio cuore. Ma magari se Roberto fa un affare lo vado a corteggiare, perché Roberto mi ha trovato in cantina due bottiglie di Amarone Quintarelli del 64 e del 69. Paolo Repetto mi ha detto così a bassa voce: digli di contattarmi che gliele compro io. Perché? Che perché cosa sono? A me piace tantissimo Quintarelli, è un produttore, è un'azienda fantastica, purtroppo è mancato un paio di anni fa. È senza dubbio il più grande produttore di Amarone, e quindi i suoi vini invecchiano benissimo, sono vini straordinari, molto ricercati da tutti gli appassionati, tra cui io, quindi insomma. Ottimo, e quindi insomma anche vini... Paolo Repetto però deve essere un buon partito, no? Se va a comprare giovane, in giro per il mondo. Ma lui sta sempre in giro per il mondo, non c'è neanche tempo. Allora chi vuoi? Allora ti do tre nomi: Gianni, sì, Marco, Antonino, chi ti piace? Antonino, buongiorno. Un altro, allora, intanto un bel marchigiano qua e subito dovevamo dargli spazio. Marco, buongiorno. Pesaro Urbino. Buongiorno. Sì, come sarebbe a dire lei Pesaro Urbino si dà del romagnolo? Perché noi siamo a 5 km da San Leo e abbiamo... E lo so che c'è questa battaglia. Abbiamo fatto un referendum, esatto, perché purtroppo è triste dirlo, ma la Regione Marche non ci ha mai aiutato. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo fatto con mamma mia, diciamo. Detto a una marchigiana qua mi spezza il cuore, mano. No, e poi parliamo di una terra in cui di referendum ne abbiamo avuto uno di recente, qua non alziamo il velo su questi argomenti. Ci dica un po' invece che vino si sente lei? Io mi sento un Sangiovese superiore, anche perché ho appena acquisito un'azienda vinicola che sto ristrutturando, la sto rifacendo tutta quanta nuova e spero di essere la prima azienda romagnola certificata biologica per tutta la filiera, probabilmente sarà così, me lo auguro. Ci credo molto in questo e mi sento appunto un Sangiovese superiore. L'azienda l'ho chiamata Amaracmand, che è un nome, una garanzia, perché poi mi ricordo dei miei nonni che mi dicevano sempre, sai, quando si partiva mi dicevano Amaracmand, cioè, bella, mi piace. Marco, in bocca al lupo per tutto naturalmente, però dai, non disdegni così tanto le nostre belle marche, abbiamo un bel Combo, un Rosso Conero, un bel buon Verdicchio, abbiamo tutti i vini anche dell'Ascolano che se vogliamo magari poi ne parliamo. Grazie. Che facciamo, Nico? Io volevo chiedere al professor Scapagnini un'ultima domanda che ci porta al prossimo ospite che ormai i nostri ascoltatori già pregustando, che verrà con noi, è qua con noi, ma vi parlerà dopo il nostro GR. Professore, vino e sport possono andare d'accordo? Il vino può entrare nella dieta di uno sportivo? E come e quanto? Il problema è sempre un problema di dosaggio ed è collegato all'alcol, ma io direi assolutamente di sì, nel senso che i famosi piccoli coach, i piccoli allenatori contenuti nel vino contribuiscono anche alla qualità dell'allenamento sportivo, anche da qua tantissime ricerche bellissime, devo dire, di associazione di queste sostanze a protocolli di allenamento. È chiaro che se si beve molto vino poco prima di una competizione, probabilmente l'effetto peggiore è legato all'aspetto alcolico. Però in un contesto di programma alimentare non è assolutamente una cosa da temere, sempre nell'ottica della dose moderata, che io ricordo è un paio di bicchieri, anche tre massimo, insomma, ai pasti, quindi non oltre il mezzo litro al giorno, che è già una bella dose, ovviamente in un soggetto adulto. Professor Scapagnini, noi la ringraziamo. Grazie. Per essere stato con noi, l'aspettiamo in studio a parlare di longevità. Ringraziamo assolutamente anche... sì, ma non mi avete chiesto qual è il mio vino, cioè io vorrei rappresentarmi anch'io. Guarda come ci mette, come ci mette in riga, qual è? Io in questo momento vi chiamo dalla Sicilia, sono a Catania, c'è un sole splendido, quindi il Nero d'Avola in qualche modo mi rappresenta appieno. Rosso e forte. Un Nero d'Avola, rosso e forte per il nostro professor Scapagnini. Grazie professore. A presto, grazie a voi. Grazie. Cuore e denari. Passeggiando in bicicletta tanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Un altro indizio per il nostro ospite misterioso, però gli ascoltatori di Cuore Denari sono avanti e qua in Italy lo stanno già adocchiando dal nostro stand. 800 24 00 24, siamo allo stand del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo al padiglione 12, quindi se volete raggiungerci al telefono o insomma in carne e ossa fisicamente, prima di salutarci Stefano, due cose devi dirci. La prima, il vino che ti rappresenta, perché Paolo Repetto dirà se sei troppo presuntuoso, se ci hai preso, o sei modesto, se invece non capisci nulla. Che vino sei? Sembrerò assolutamente presuntuoso o ancora peggio campanilista al massimo, quindi io mi rappresento come un amarone, insomma. Un amarone, l'idea è quella comunque del connubio perfetto di tre componenti, di tre vitigni, perché a me piacciono le cose composte, non molto sfarzose, però composte, dove ognuno fa la sua parte, e vellutato, e perdonatemi, magari caldo, insomma, quindi... Vellutato e caldo, incredibile. Ma che ospiti, mamma mia, Paolo, cosa dici? Secondo me c'entra, aggiungerei proprio, visto che parlavamo prima, un amarone classico di Quintarelli, no? Old style, quindi anche elegante, insomma, sì. Pacato, quindi ci sta. Allora, dato che tu sei tutte queste cose, devi farci la promessa, e quindi sicuramente la ricetta di oggi. Vi anticipo già, perché ci ho riflettuto un attimo. Bravo, il rosé. Ho pensato subito alla triglia, io sono amante del pesce e la mia cucina è prevalentemente rivolta al pesce, quindi la triglia che si abbina bene semplicemente con il colore del rosé. Perfetto, come la faccio? La stagione è perfetta per le erbette di campo, e nella nostra zona andiamo pazzi per i carletti, e noi li chiamiamo bruscandoli, in realtà è luppolo selvatico. E li soffriggiamo lentamente, leggermente, con una sfumata di rosé, e con lo stesso rosé facciamo una riduzione con cosa un po' di cipolla, riduzione? Lo facciamo cuocere fino a creare una specie di sciroppo. Facciamo un sandwich con la triglia appena cotta in padella antiaderente, sfilettata e cotta, con un goccio d'olio extravergine di oliva. Facciamo un sandwich con un filetto di triglia, un po' di erbette, adagiamo sul piatto e contorniamo con la salsetta. Va bene, Stefano Polato, allora, grazie per la fiducia sulle mie capacità di cuocere in questa maniera, di cucinare in questa maniera la triglia. Tutte le indicazioni sulla pagina di Cuore Denari. Ottimo. Grazie a Stefano, grazie. A voi. Una ricetta risparmiosa e salutare. Il nostro chef, come l'abbiamo definito prima, spaziale. Ottimo, grazie. E adesso rimane con noi Paolo Repetto di Vinifera, mai venuto a trovarci l'altro non più tanto misterioso ospite. Ed ecco, ormai in rettilineo d'arrivo, Francesco Moser alza le braccia al cielo nel segno del trionfo. Francesco Moser entra nella storia del ciclismo, nella storia della Parigi-Roubaix, per aver vinto per 3 anni consecutivamente la Parigi-Roubaix. Facciamo un applauso da studio. Dai, evviva! Grazie, domenica, domenica prossima c'è la Roubaix. Per questa straordinaria sorpresa. Invece ricordo un sacco di Giri d'Italia, Nicoletta. Ero accanitissima. Tra l'altro, l'occasione è propizia per un brindisi. E che brindisi? Lo facciamo con un'etichetta che è un'etichetta da record. Dopo il cuoco spaziale, l'etichetta da record. Ottimo. Ma questo è vero, Deborah. Allora, adesso apriamo il 51-151. Esatto, speriamo di non facciamo far disastri. Sentire... Eccoci qua, ecco. Ottimo, ecco. brindiamo per Cuore Denari, naturalmente per tutti gli amici che sono venuti a trovarci e che ci stanno che salutando. Ci guardano, certo che vedere le conduttrici, quelli che brindano non è tanto le una conduttrici grande soddisfazione, ma più ubriache della storia. Godete per noi, come a dire. E allora, ma parliamo di questo vino, Francesco. Beh, 30 anni fa, quando ha fatto il record, noi facevamo già il vino, perché il vino lo faceva mio padre. Però a un certo punto avevamo interrotto proprio di produrre il vino, vendevamo l'uva alla cantina sociale. Poi nel 75 con mio fratello Diego abbiamo cominciato a imbottigliare e nell'84 quando ho fatto il record il professor Spagnoli, che era il preside dell'Istituto Agrario di San Michele, che era un appassionato dello spumante, mi ha consigliato di produrre spumante. E fai, tu li metti su quel numero lì, non occorre inventare nomi, mi ha detto. Bellissimo. E abbiamo messo il numero del record e già da allora abbiamo continuato a farlo. Ah. Adesso abbiamo aumentato la produzione, è un vino Trento DOC che è fatto con 90% di Chardonnay e 10% di Pinot Nero. Adesso abbiamo in lavorazione anche un rosé, che quello è fatto col Pinot Nero, che uscirà l'anno prossimo. Poi facciamo altri vini come il Müller Thurgau, il Moscato, il Traminer. Quindi questa è una dimostrazione di il Lagragne e il Teroldego, che a proposito di piatti si fa anche il risotto al Teroldego, che è un po' Bordeaux, insomma. Francesco, questa è la dimostrazione di quello che ci anticipava il professor Scapagnini, che vino e sport vanno a braccetto. A braccetto, incredibile. Vedi, ma noi, quando sono andato in Messico mi ero portato anche il vino dall'Italia. non è arrivato tutto perché l'hanno rubato la dogana. Vabbè, insomma, dai, insomma, e poi anche, male che non hanno rubato la anche alle corse nel camion della squadra avevamo dei cartoni di vino, perché così si beveva sempre quello senza, perché non è che se ne beveva un paio di bicchieri alla cena, perché al Giro d'Italia si fa solo la cena, alla mattina si beve il caffè latte o il tè, insomma, non è che si beve il vino al mattino. Certo. Però c'era qualche corridore che, come anche ti, che beveva lo champagne anche in corsa. Pensa. Hai capito. Paolo, l'hai assaggiato? Sì. Allora dici un po'. Veramente buono, complimenti. Eccoci qua, quindi come lo abbiniamo poi magari. Eccoli qua, qua mi stanno partendo tutti gli ospiti e conduttori, hanno tutti il bicchiere in mano in bocca, ma qua dovremo andare avanti con i nostri ascoltatori. Ma certo, perché abbiamo quell'Antonino che io, tu mi hai detto, chi ti piace? Antonino. E lei ne ha preso un altro, ma fa sempre così. Antonino, buongiorno. Io l'ho raccomandata. Era ubriaca già prima senza bere, mi stai dicendo. Ma quando io la raccomando, Deborah mi cambia. Antonino, buongiorno. Buongiorno. Antonino, eccoci qua. Ritorniamo un po' al tema vino come modalità di investimento e di risparmio. Ci dica un po'. Sì, io ho diverse bottiglie di annate molto, molto vecchie, tra l'altro un Barolo di Rocca Manzoni che è dell'85, che io conservo ancora più per un fatto affettivo, perché certo, mi era stato regalato dal mio suocero, che adesso non c'è più. Antonino, la sentiamo molto male, quindi la domanda, venga, domanda solo semplicemente questo: per chi fa collezioni di vino con dei vini, con delle bottiglie che non aprirà mai, perché in realtà il vino a un certo punto non si beve, insomma, lei dice che senso ha tenere, la sentiamo malissimo Antonino, che senso ha tenere una bottiglia per 200 anni per non berla? Ripeto, qual è lo spirito che anima il collezionista di vino? Il vero collezionista di solito sono più le bottiglie che beve che quelle che compra, perché dietro allora la collezione, ma non solo nel vino, anche tu prendi collezionisti di orologi, di macchine, c'è sempre una passione. Anche perché quando tu arrivi a spendere certe cifre per una bottiglia di vino, noi sappiamo benissimo che ci sono dei vini che hanno dei prezzi che trascendono il prezzo di un vino. Quando tu arrivi a pagare una bottiglia 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, come nel caso di alcune annate di Romane Conti, è evidente che il prezzo trascende il prodotto, perché il prodotto trascende il vino, diventa un'icona, diventa uno status symbol, diventa un qualcosa che gli appassionati vogliono a tutti i costi possedere, e nel mondo ci sono persone che aprono tranquillamente bottiglie con questo prezzo, acquistano, comprano, e quindi insomma il collezionista è quello, chi compra solo per mettere da parte e non berle mai, insomma è un po' come godere a metà. No? Paolo, tu l'hai fatta una pazzia nella tua vita? Da che punto di vista? In termini di acquisto di un vino che, sul quale proprio volevi mettere le mani per ne cura... faccio troppo spesso. Ah, ecco. Troppo, però vedi, io siccome sono anche un commerciante, a volte devo sapermi frenare, perché no, in realtà per la mia collezione personale compro anche bottiglie magari che ci tengo ad avere, magari le pago anche un po' di più, però come commerciante cerco sempre di comprare a un prezzo. Però spesso ho partecipato delle aste e ho visto persone che perde proprio con la una testa. Frenesia tale dal voler acquistare quella bottiglia o quella cassa da perdere il controllo. Incredibile. Ma chissà, ci sono quelli che fanno anche le collezioni delle etichette, perché noi ci scrivono che vogliono che le etichette, se si accontentano che sono delle etichette. Ma incredibile. Guarda che questo anche è molto dei bella, tappi eh? E delle capsule fanno, c'è chi fa. Allora gli dico compratevi una bottiglia che c'è sul tappo e ma vogliono. Francesco, ma con il tuo vino vai anche sui mercati internazionali? Sì, abbiamo un importatore o due negli Stati Uniti, poi esportiamo un po' nel nord Europa, a parte che noi la cantina non è tanto grande, è una cosa familiare, un'azienda agricola familiare che non produce milioni di bottiglie, perciò certo, però. A un certo punto... Senti, i tuoi figli lavorano con te? Sì, Carlo e Francesca lavorano nell'azienda e si occupano soprattutto della parte diciamo commerciale e promozionale, ecco. Io invece mi occupo della vigna. Vedi, la cosa è proprio il cuore. E questa in effetti a Deborah come donna di denari piace certo. molto, è, una, no? è un lavoro che è un prende lavoro... sempre più esatto, giovani. Esatto, nelle Paolo. Langhe, Paolo, io sono vero, rimasta vero, veramente vero, facile. Colpita e anche commossa dal piacere che vedo nei giovani a ritornare alla loro terra e a promuovere i prodotti della loro terra. Io ho frequentato la scuola enologica, quando ho finito nel 98 eravamo due sezioni, quindi metti 20 persone per sezione. Mi risulta che qualche anno fa erano arrivate a 5 le sezioni, quindi c'è stato veramente un boom fino agli anni 90, inizio 2000. Ma c'è sostanza attorno a questa nuova passione, tutto merito sì, dei reality show che adesso promuovono molto la cucina. Guarda, il vino, il mondo del vino è un mondo secolare che c'era già prima dei reality, continuerà dopo. Poi per fortuna anche tutti questi discorsi di giornali, TV, da un certo punto di vista sono anche positivi, perché accrescono l'interesse verso un settore, quindi avvicinano anche i giovani al mondo dell'agricoltura, che comunque è un settore importantissimo per il Made in Italy, quindi e poi ci sono sempre molte opportunità di lavoro, perché in Italia ci sono tantissime aziende vinicole. Ho letto l'altro giorno, forse proprio sul Sole 24 Ore, che le aziende vinicole sono tra le poche aziende italiane che continuano ad assumere, quindi ottimo. Senti, ma posso tornare per un attimo ai soldi, solo perché c'è l'ascoltatore che chiede quanto costa l'amarone, perché io non so, costo medio ed una classifica per amarone, Paolo, ripeto. Domanda impossibile, perché ci sono amaroni, perché dipende dal produttore, dall'annata, dipende se è in bottiglia, in cassa, ci sono amaroni in enoteca da 25 euro o ci sono bottiglie di amarone che puoi arrivare a pagare anche più di 500 euro. Hai capito, eccoci qua. Stavo pensando, no, non posso non pensare, ce l'ho qua vicino e noi siamo molto emozionati, Francesca, che tu sia qua, anche perché poi questo vino è straordinario, io non lo ho ancora stiamo bevuto, bevendo. Ma tra un po' vado. Pensavo che un atleta e un vignaiolo hanno dei tratti in comune, ad esempio la determinazione, la preparazione, lo sportivo ad esempio deve conoscere a fondo il suo corpo. E chi lavora nelle vigne è il territorio. Ti piace questo intreccio? Tu sì, riesci a fare l'uno e l'altro? Ti ha aiutato? Beh, adesso non corro più. Ho corso, io prima ho cominciato, fino a 18 anni lavoravo alle vigne, ero io, a un certo punto ero rimasto solo io il contadino. Poi ho cominciato a correre e in quegli anni lì, quando ho cominciato io, c'è stato un po' di sbandamento, perché Diego, Aldo, Enzo, eravamo tutti impegnati con le corse. E poi Diego ha smesso di correre e ha ripreso in mano la vigna. Poi quando io ho smesso, proprio l'anno che ho smesso, ho comprato questa tenuta del Maso e da allora abbiamo sviluppato anche la cantina proprio lì, e abbiamo la cantina proprio in mezzo alle vigne, in un posto che è molto bello perché si vedono le montagne, che adesso vedo le piste del Bondone, della Paganella. Noi siamo già lì. Francesco, ti ha aiutato, cioè, nella tua carriera di sportivo, venire a contatto proprio con i tempi della natura, della terra, ti ha in qualche modo aiutato? Diciamo che la stagione ciclistica ripete un calendario continuamente, sì, ogni anno comincia a febbraio fino a ottobre, cioè, è come la vendemmia, è come lavorare in campagna, perché a febbraio si pota, si lega le vigne e poi comincia tutti i lavori sulla pianta e poi si va sulla maturazione dell'uva fino alla vendemmia, poi l'autunno insomma c'è un po' di calma, ma diciamo che poi quando si è anche produttori di vino, che si fa la commercializzazione, calma non ce n'è mai, perché bisogna sempre o imbottigliare o fare cose in cantina, perciò non siamo mai disoccupati. Hai capito? 800 24 00 24, intanto i nostri ascoltatori super incuriositi dal tema di oggi di Cuore e Denari si stanno improvvisando anche poeti. Dai. E vogliamo sentire Gianni da Udine? Va bene, Gianni. Ha fatto una poesia per noi? Sì. Gianni? Sì, no, non ho fatto la poesia per voi. Allora Gianni, buongiorno, scusi, cosa interviene a fare? No, ci la dico. Poesia per voi la farò più avanti. Bravo, va bene. No, ma questa è uscita 30 anni fa, io ne ho 50, è uscita da sola, una cosa diciamo che io non mi sarei aspettato, in un momento particolare della vita. E la vorrei abbinare, perché siamo anche un popolo di poeti, no? Oltre che di vignaioli e altro, vorrei abbinare al discorso del nebbiolo, della nebbia, perché appunto parla della nebbia, è corta, se... Ecco, bravo, sì, che sia un po' sintetica. Sì, no, vado. Allora vado. Scende la nebbia, umida e calda, scende in naturale silenzio sulle cose. Ricordo, cerco di ricordare il paesaggio, l'imbrunire, i piccoli e graditi rumori che mi aprono l'animo, là alla ricerca senza ricerca. Eccolo qua, ermetico come nella miglior tradizione poetica italiana, ottimo. Bravo Gianni, bravo. È la cosa italiana, ecco, perché noi siamo... Ecco, la dedichiamo, la dedichiamo agli ospiti del Vinitaly. A tutti noi italiani, al vino, a quello che... Grazie, grazie Gianni, perché stamattina Gianni, vi sentiamo tutti male. Aspetto però la poesia per Nico e Deborina, si metta al lavoro, magari prenda intanto andiamo bicchiere di vino che la ispira e vada, ce la scriva, la mettiamo sulla nostra pagina. E intanto andiamo a Savona, dove invece c'è Edoardo. Che vino si sente lei? Un po' forte, strong, Edoardo. Sì, buongiorno intanto. Ci dica. Allora io mi sento un raboso. Un vecchio vino veneto, Friulano. Un vecchio vino Friulano. Trevigiano, diciamo. Trevigiano. Esatto. E mi segue un vecchio vino perché è come la mia vita, un vino un po' andato in decadenza e poi ultimamente si sta rimettendo in piedi, diventando interessante. Bravo, Edoardo. Da un momento lo assaggeremo allora, magari lo troviamo qua anche al Vinitaly, andiamo ad assaggiarlo con Francesco. Grazie Edoardo. Ho allora... un amico che lo fa il raboso. Vedi, io so che con Francesco Moser uno in ottime mani. Mm-mm. Cioè, adesso lo accompagniamo. Allora, che vino sarebbe Francesco Moser, Paolo? Potrebbe essere un grande Borgogna, perché è una persona elegante, aristocratica, no? Quest'aria. Okay. Guarda che manchiamo io e te all'appello ancora, eh? Ma io ce l'abbiamo fatto studiare un'ora. Abbiamo 30 secondi, spara. Vai. Il vostro, siccome siete una bellissima coppia, dico un vino solo per tutti e due, siete un grande champagne millesimato, quindi siete frizzanti, allegre, solari. Insomma, allora, per quello che riguarda me ci ha azzeccato, bollicine. Perché io adoro le bollicine, io continua sono proprio una bianco mosso. Può saltare come siamo, frizzanti, intelligenti. Esatto. Come è venuta a cuore Denari oggi, super frizzante. Peccato andar via. Grazie. Grazie a Paolo Repetto, a Francesco Moser, grazie ancora a tutti. Alla prossima. A Davide Ciocia, Paolo Corleoni, Laura Vanossi qui a Verona, Marco Lombardo a Milano. Noi torniamo purtroppo domani da Milano, ma rimaniamo qua, dai. Dai, magari. Ciao a tutti. Cuore e Denari.